Perfetto giorno di Simone Spezia. In Sicilia caos sulla candidatura 5 Stelle di Cancelleri, sospesa dal giudice. Un caso simile avvenne a Genova. Disoccupazione al 10,9% nel secondo trimestre, ai minimi dal 2012. Tendenza incoraggiante, dice Gentiloni. Livorno si indaga sugli scolmatori, costruiti nel 2013 ma non abbastanza grandi da contenere l'esondazione. Scuole e vaccini, primi problemi. A Udine esclusa dall'asilo una bimba, poi ammessa. Molti ancora fuori regola. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp. Siamo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24, su entrambe, potete andare là, se volete potete commentare anche là, leggeremo qualche commento in diretta anche da là, naturalmente se li riterremo pertinenti come sempre. Andiamo rapidamente alle notizie di questa giornata, perché poi anche nella seconda parte della trasmissione, oltre alla ricchezza della prima parte dal punto di vista informativo, abbiamo parecchi ospiti. Iniziamo dal caos siciliano, dove la candidatura di Cancelleri del Movimento 5 Stelle è stata sospesa da un giudice. Siamo in diretta con Palermo, col corrispondente del Sole 24 Ore, Nino Amadore. Nino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, la notizia è questa, che il Tribunale di Palermo ha sospeso le regionarie, cioè la selezione, le primarie dei 5 Stelle, dei 5 Stelle che erano state fatte a luglio e che avevano indicato in Giancarlo Cancelleri il candidato alla presidenza della regione, e avevano anche indicato altri candidati per le regionali. Che significa? Significa che il giudice Claudia Spiga ha accolto il ricorso presentato da un militante, Mauro Giuliti, che era stato escluso dalla competizione, diciamo, di luglio, perché destinatario di una misura disciplinare da parte del movimento. Il provvedimento del giudice è un provvedimento cautelare e interlocutorio. Intanto il giudice ha completamente smontato le motivazioni della misura disciplinare che era stata fatta nei confronti di Giulivi. La prossima udienza è stata fissata per il 18 settembre per dare modo anche ad altri candidati che si erano classificati in posizione utile per presentare le loro motivazioni e le loro deduzioni. Questo provvedimento, e chiudo, arriva il giorno in cui Cancelleri con Di Maio avvia un altro tour elettorale in giro per la Sicilia, in particolare in provincia di Messina, ma a questo punto si vedrà. Grazie dunque a Nino Amadore per questo aggiornamento. Più avanti nel corso della trasmissione andremo a sentire Lorenzo Borrè, chi è l'avvocato che ha presentato il ricorso e ha ottenuto la sospensione della candidatura di Cancelleri, ed era lo stesso avvocato della Cassimatis a Genova e che quindi si sta occupando di tutte le vicende che hanno a che fare con le persone che sono state espulse o hanno avuto problemi all'interno del Movimento 5 Stelle. Ci faremo raccontare qualcosa di più. Siamo ai dati di oggi sull'occupazione. Dati quelli dell'Istat che premiano soprattutto i giovani e le aree del centro-nord con valori che non si ricordavano dal 2012. Il secondo trimestre dell'anno fa segnare allora, dopo tre cicli di crescita, un calo dei disoccupati al 10,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La stima scende a 2.839.000 unità, meno 154.000 in un anno. La diminuzione coinvolge in ugual misura uomini e donne, soprattutto gli individui con meno di 50 anni. Il calo inoltre è concentrato tra gli ex occupati, ossia tra chi aveva già un lavoro. Gli occupati al contempo sono cresciuti di 78.000 unità, più 0,3% rispetto al primo trimestre, grazie all'ulteriore aumento dei dipendenti, più 149.000. Tra questi prevalgono i contratti a termine. Le ore complessivamente lavorate, spiega ancora l'Istat, crescono dell'1,4% sull'anno, confermando l'elevata intensità occupazionale della ripresa. Soddisfazione da Palazzo Chigi, disoccupazione ai minimi dal 2012, buoni risultati da Jobs Act e ripresa, ancora molto da fare sul lavoro, ma la tendenza incoraggiante, commenta il presidente del Consiglio Gentiloni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di occupazione, questa mattina è stato diffuso il rapporto dell'OCSE sull'istruzione, il tradizionale rapporto dell'OCSE sull'istruzione. I nostri giovani sono i primi nell'area per laureati in scienze umanistiche. In Italia un ragazzo su quattro tra i 15 e i 29 anni non è occupato o non è iscritto ad un percorso di formazione, sono i cosiddetti NEET, contro una media OCSE del 14%, peggio dell'Italia solamente la Turchia. Italia penultima nella classifica per numero di laureati, fa peggio solamente il Messico. Attilio Oliva, presidente dell'associazione 3L, al microfono di Maria Piera Cicci. I numeri li sa che in Italia sono 18 e all'estero sono 36, siamo al doppio. Non è un meno, è la metà. Cioè gli italiani 25-64 anni sono la metà della media europea. Quindi il divario è enorme, non è un più e meno. Questo è il primo punto che vorrei sottolineare. Il secondo è che da noi c'è un orientamento prevalente per le materie umanistiche, che non è per niente disdicevole, ma siccome sono già pochi, va a finire che per le materie ingegneristiche, scientifiche, gli STEM sono ancora meno. Quindi non c'è un'offerta di laureati adatti sempre alla domanda delle imprese. Ora a Livorno, dove sono aperte le indagini sull'esondazione dei fiumi. Anche l'ultimo corpo è stato trovato, era tra il fango dei terreni di Tre Ponti, non distante da quello della donna recuperato ieri. In punti diversi, sabato notte, l'onda di piena dell'Ardenza, gonfia come uno tsunami, li aveva ghermiti e trascinati via. In città, oggi, la riapertura delle scuole dell'infanzia è il primo segnale di una faticosa normalità da inseguire. Nelle zone alluvionate si spala, mentre rimbomba la storia del Rio Maggiore, il rio tombato che è esploso inghiottendo la famiglia di Viale Nazario Sauro. Nel 2012 un perito aveva giudicato insufficienti le dimensioni delle case di espansione in costruzione per trattenere le acque in caso di nubifragi, ma il comune non aveva i fondi per cambiare il progetto, comunque in linea con quanto allora prevedeva la legge regionale, sulla base del parametro che mette in relazione l'intensità delle precipitazioni con la capacità di smaltimento, parametro aggiornato e reso più stringente l'anno scorso, troppo tardi. È uno degli elementi sui quali la procura approfondirà gli accertamenti. Al momento il fascicolo è aperto per disastro colposo a carico di ignoti. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'analisi di Daniele Biacchessi. L'Italia è una repubblica una e indivisibile, ma fondata sulle alluvioni, sulle frane, sugli smottamenti. A Livorno ci sono due fiumi, Rio Ardenza e Rio Maggiore. D'estate scorrono pigri, con minuscoli rigagnoli di acqua, ma in autunno e in primavera possono diventare impetuosi, cattivi, violenti, fino a distruggere ogni cosa. Nel weekend il Rio Maggiore, cementificato da 30 anni, è esploso addosso ad una palazzina allestita dall'Accademia Navale e lo Stato. Il Rio Ardenza, nei suoi ultimi 3 chilometri, ha portato via di tutto fino ad abbattere le spallette dei Tre Ponti. Maggiore e Ardenza sono due dei tanti casi italiani di ambiente negato. Eppure nel 1990 c'era stata un'altra alluvione con forti devastazioni. Eppure nel 2014 la Protezione Civile presentò un piano di interventi anti-nubifragio e il Comune annunciò i lavori di realizzazione di 4 casse d'espansione lungo Rio Maggiore. Costo 1,8 milioni di euro a carico delle ditte che stanno costruendo un nuovo quartiere, il cosiddetto Nuovo Centro, che passa sopra al torrente interrato. Eppure altri lavori sul Maggiore erano stati eseguiti nel 2003, sul Rio Ardenza nel 2003 e nel 2007. Ma allora, quanti torrenti come Ardenza e Maggiore scorrono tranquilli, apparentemente innocui, nel nostro paese? Così dunque l'analisi di Daniele Biacchessi sul tema delle alluvioni, delle allerte. Torneremo più avanti nel corso della trasmissione parlando sicuramente del caso della Liguria. Liguria che dopo i fatti degli anni scorsi ha deciso di strutturare un nuovo sistema di allerta meteo che a quanto pare funziona molto meglio, ci faremo spiegare come, e poi siamo in attesa di conferma, dovremmo avere il sindaco di Livorno Filippo Nogarin e vedremo se riuscirà ad essere con noi nel corso della trasmissione. Abbiamo sentito poco fa i numeri sull'occupazione, numeri importanti in vista delle valutazioni da fare per la prossima legge di stabilità. È l'appuntamento più importante in un calendario parlamentare di fine legislatura che si va componendo e nel quale lo Ius Soli slitta. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, un calendario parlamentare che ha anche un significato politico alla vigilia della ripresa dalla pausa estiva, lo ius soli, vitalizi, legge elettorale, ma è proprio difficile che tutti saranno approvato, soprattutto lo ius soli che slitta dopo la legge di stabilità, quindi quasi impossibile che passi prima della fine della legislatura, anche perché il PD non chiederà nessuna accelerazione. Il vero problema per andare alle urne è la legge elettorale. I 5 Stelle chiedono che si approvi subito la legge Richetti sull'abolizione dei vitalizi già approvata a Montecitorio, perché è la pregiudiziale per riprendere qualsiasi discorso sul sistema di voto. Per Montecitorio però sul calendario bisognerà attendere la conferenza dei capigruppo, ma anche qui è probabile che il PD scelga comunque la linea attendista a dopo le elezioni siciliane. E c'è poi l'appuntamento più importante, che è quello della legge di bilancio. Il Parlamento deve approvare la nota di aggiornamento al DEF entro il 27 settembre, ricevere la legge di bilancio entro il 20 ottobre. A te, Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Parliamo di scuola e vaccini. Iniziano le scuole, iniziano i problemi. È scaduto nei nidi e nelle materne il termine per mettersi in regola con i documenti vaccinali e da oggi il bambino senza certificato resterà fuori e alla famiglia verrà inviato un avviso con l'invito a regolarizzare tempestivamente la propria posizione. Ma intanto il primo caso riguarda una bambina della provincia di Udine. La mamma avrebbe presentato ieri documentazione incompleta rifiutandosi di integrarla con un'autocertificazione per questioni di privacy. Oggi però la consegna dei documenti e la riammissione a scuola. Per un quadro completo della situazione bisognerà però attendere ancora, visto che alcune scuole ancora non hanno riaperto i battenti e visto che non esiste ancora un'anagrafe vaccinale nazionale. Intanto arrivano i dati di Milano, dove secondo l'assessorato all'educazione del comune il 90% delle 33.000 famiglie con un bambino iscritto ai nidi e alle materne ha già presentato la certificazione. A Bologna sarebbero già una ventina le famiglie Novax che non hanno presentato alcun documento e che non intendono fare un passo indietro. In Piemonte ci sarebbero 61.000 bambini non in regola, ma le famiglie sono state contattate nei giorni scorsi e in alcune scuole romane mancherebbero oltre un terzo dei certificati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, viene presentata una nuova mostra sull'Egitto dedicata interamente ad Amenofi II. Il perché di questa scelta e cosa troveremo nella mostra lo racconta il curatore Christian Orsenigo, intervistato da Adriana Fracchia. La scelta proprio di Amenofi II e di costruire una mostra monografica su di lui a Milano è dovuta al fatto che proprio nella nostra città sono conservati degli archivi dell'egittologo che scoprì la sua tomba, una delle tombe più belle della Valle dei Re, e che ha restituito anche migliaia e migliaia di oggetti che hanno permesso di ricostruire come appunto l'aveva scoperta l'archeologo alla fine dell'Ottocento. Ecco, i pezzi imperdibili di questa mostra? Sicuramente, rimanendo legati al discorso della tomba, abbiamo in mostra gli oggetti più importanti del suo corredo funerario, importanti dal punto di vista storico, artistico, ma anche sono un gran bel vedere, se mi è permesso il termine. Per quanto riguarda altri oggetti, abbiamo moltissimi prestatori, sia privati che grandi collezioni europee. Soprattutto nella prima sala ci sarà la possibilità di vedere anche l'evoluzione della statuaria all'epoca di Amenofi II, dalla giovinezza fino all'età più matura. E ora andiamo a chiudere questa prima parte della trasmissione ricordandovi che la mostra è fino al 7 gennaio con lo sport, il calcio, la Champions League che stasera si gioca, due squadre italiane in trasferta, entrambe in Spagna, anche se forse a Barcellona Carlo Genta non direbbero Spagna, però insomma ecco, soprattutto in questo periodo. Vai Carlo. Dunque, doppia avversaria spagnola e doppia sfida di altissimo livello per Juventus e Roma. Perché la Juventus gioca su uno dei palcoscenici più belli del mondo, diciamoci la verità. Ti correggo, la Roma gioca a Roma. Ospitiamo una spagnola che è l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid di Simeone è l'avversaria più pericolosa del girone della Roma. Roma che si presenta a questa Champions League per grosso modo divertirsi, poi vediamo. Juventus che si presenta a questa Champions League per fare tanta strada. Si comincia questa sera a Barcellona, dunque ci sono delle assenze, Chiellini, Mandzukic non saranno della partita, Allegri ha molte alternative, sorvegliato speciale Pablo Dybala che è stato strepitoso contro il Chievo sabato, però lo attendiamo al piano di sopra, e cioè questa sera a Barcellona nella sfida faccia a faccia contro Messi, e dimmi tu se c'è qualcosa di meglio al mondo rispetto a questo faccia a faccia. No, decisamente gran partita ci aspetta stasera, almeno speriamo che lo sia, naturalmente. Speriamo che lo sia, naturalmente. Molto presto, siamo solo agli inizi di questa maratona europea, però è già comunque, sarà già comunque una partita di alto livello, importante per la Juve, secondo me, non prendere delle scopole che possono fare male in futuro. Allora, il riscaldamento per questa partita a partire dalle 14 con tutti convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo, iniziamo il nostro giro per l'Italia, iniziamo dalla Sicilia, da questo ricorso vinto che ha portato alla sospensione della candidatura di Cancelleri, il candidato del Movimento 5 Stelle, appunto, alle regionali siciliane. Traffico. Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presento. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del caos sulla candidatura 5 Stelle in Sicilia, ci torneremo tra un attimo, dei dati sulla disoccupazione al 10,9% nel secondo trimestre di Livorno, e si indaga sugli scolmatoi di scuola e vaccini, e come avete sentito anche di Champions League. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia con sempre il 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo anche in diretta video. Durante la diretta video un ascoltatore ci scrive che ci piace coprire di letame il Movimento 5 Stelle. Giornalai, non giornalisti. Allora, a parte che quello del giornalaio è una professione dignitosissima e non capisco che insulto rappresenti darmi del giornalaio, ma dall'altra parte ci consenta di dire che qua c'è una decisione di un giudice della quale noi stiamo per parlare, ed è la decisione del giudice che ha sospeso la candidatura di Giancarlo Cancelleri alla presidenza della regione siciliana. A difendere il ricorrente c'era l'avvocato Lorenzo Borrè, che è lo stesso che ha presentato il ricorso per Marika Cassimatis a Genova, poi vinto più o meno con le stesse modalità. Mi sbaglio, avvocato? Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. No, non sbaglia. Una sola precisazione, diciamo, il provvedimento depositato oggi dal Tribunale di Palermo è un provvedimento interlocutorio emesso sul presupposto della sussistenza del cosiddetto fumus boni iuris, ossia della fondatezza del diritto, che appunto ha sospeso gli esiti delle regionarie sia per la scelta dei candidati del Movimento 5 Stelle che per il candidato, cioè sia per il candidato ai consiglieri regionali, sì, che per la candidatura alla presidenza, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati, sì, diciamo, passati alle comunali, ma sostanzialmente, diciamo, nel provvedimento che... Il che vuol dire, avvocato, però, me la semplifichi per gli ascoltatori, sì, di fatto è una sospensiva, cioè non è una decisione definitiva. È una sospensiva cautelare. Però al momento le candidature sono congelate. Avvocato, allora, mi sciolga la mia perplessità. Io sono molto dubbioso, e glielo dico sinceramente, quando vedo un giudice che entra nelle dinamiche interne di un partito, poi possiamo non chiamarlo partito, possiamo chiamarlo movimento, possiamo chiamarlo come ci pare, e ho, come dire, una certa perplessità, ossia un partito decide quali sono i suoi meccanismi di selezione dei suoi vertici, e questi meccanismi possono essere del più vario genere. Come mai un giudice entra in questo modo e come mai il vostro ricorso viene accolto? Sì, diciamo che in realtà il giudice si è limitato a rilevare la violazione delle stesse norme dell'associazione, che l'associazione si è data, quindi non di conserva anche delle norme del codice civile. Quindi sostanzialmente non è una intrusione nella vita associativa, ma semplicemente un provvedimento che mira a far rispettare proprio quelle stesse regole che il movimento si è dato. Nella fattispecie è stato ravvisato, via cautelare incidentale, che per quello che riguarda l'esclusione di Mauro Giulivi questo rispetto non c'è stato. E quali norme, o meglio, quali punti dello statuto o non statuto, io adesso su questa cosa non ci capisco più niente, dell'associazione Movimento 5 Stelle sarebbero stati violati? Cioè quali sono gli snodi che il giudice ha ritenuto, per i quali il giudice ha ritenuto di sospendere per il momento la candidatura candidatura di Cancelleri? Beh, sono, diciamo, ha rilevato diverse, come dire, diverse aporie o vizi. Sostanzialmente il signor Giulivi era stato escluso sul presupposto che nei suoi confronti pendesse un procedimento disciplinare, ma il giudice ha rilevato che in primo luogo non risulta correttamente instaurato alcun procedimento disciplinare nei confronti del signor Giulivi, che in secondo luogo la condotta che gli è stata contestata non sembra configurare affatto un illecito disciplinare, e specifico che la condotta che gli sarebbe in condizione d'obbligo sarà contestata era la mancata presentazione in occasione delle comunali di Palermitane per la firma del cosiddetto codice. Avvocato, ma dove si trova? Perché sembra che sia in mezzo all'uragano Irma, sentiamo un sacco di vento, non riusciamo a capire. Eccomi qua. Ecco, meglio. Mi metto, sì. Mi sembra meglio, sì. Prego. Avvocato, lei tra l'altro, come si diceva, ha seguito il caso di Cassimatis, ha seguito il caso di Giulivi, in questo caso che ha portato alla sospensione di Cancelleri, ma in realtà lei, mi sembra di aver capito, che non dico che si occupi a tempo pieno delle persone del Movimento 5 Stelle o cacciate o escluse dalle elezioni, dalle candidature, però insomma è un pezzo importante della sua professione, ho capito bene? Sì, diciamo, sono un cultore della materia, cioè ovviamente non mi dedico solo a questo, diciamo, rientra in una sorta di servizio di avvocatura attiva e nell'ambito appunto di una mia ex militanza del Movimento 5 Stelle. Cioè lei è stato un militante e poi ha cambiato idea? No, non è, diciamo, sono uscito perché, diciamo, per una serie di delusioni, tra cui ultima quella culminata con l'espulsione di 3 miei amici attivisti romani nel gennaio del 2016, che poi è stato il là alla iniziativa giudiziaria volta appunto a far dichiarare la nullità di tutte queste espulsioni combinate in occasione delle procedure di selezione e dei candidati per il Movimento 5 Stelle. Quanti ne ha vinti i ricorsi così fino adesso? Diciamo che su 31 espulsi, 31 sono stati reintegrati in via cautelare. 31 reintegrati in via cautelare. Senta, 31, questo glielo devo chiedere perché sa come gira, no? Gli ascoltatori, qualche ascoltatore via SMS, via WhatsApp ci chiede: ma chi lo paga questo? Beh, i miei clienti. I suoi clienti, quindi non lo fa, non è un'attività di volontariato, come dire, nei confronti, diciamo, da ex attivista. Non esattamente, ovviamente trattandosi di attivisti, cioè, come suol dire, un occhio di riguardo, ma insomma sono attività remunerate, insomma, diciamo, come prevede, diciamo, la legge. Grazie avvocato Lorenzo Borrè, e vedremo quando andrà a finire poi la discussione di merito. Da questo punto di vista, come si diceva, torniamo alle vicende che hanno a che fare con l'alluvione di Livorno. Ieri ci siamo occupati nei giorni scorsi delle tempistiche degli allarmi che sono stati dati, e lo sapete che nel caso che ci sia il rischio un'allerta arancione, un'allerta rossa, dovrebbero arrivare dei messaggi ai cittadini, degli avvisi ai cittadini che dicono sostanzialmente: abbandonate gli scantinati, salite ai piani alti, non state vicino ai fiumi e via dicendo. Genova, che ha una brutta e pesante esperienza da questo punto di vista, la Liguria in genere una brutta e pesante esperienza da questo punto di vista, ha deciso di creare un nuovo sistema di allarme. Abbiamo chiamato Stefano Maggiolo dell'ARPAL Liguria per farci raccontare un po' come funziona. Maggiolo, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Ci dice come funziona? Ma dunque, guardi, vi faccio una breve panoramica di quello che accade, che è comune un po' a tutti i centri funzionali. Cioè, ovviamente i previsori meteo-idro delle varie strutture, che siano agenzie o centri funzionali, fanno la loro attività sulla base di modelli matematici su scala internazionale e poi si riducono, diciamo, a scala locale nel massimo dettaglio possibile. Sì. Poi, in conseguenza quindi dei risultati prodotti da questi modelli, note le condizioni al contorno, le condizioni anche al suolo, a seconda di quello che è accaduto nei mesi pregressi, vengono, diciamo, definiti dei livelli di rischio che corrispondono alle fasce, diciamo, di colore introdotte. Certo. Tutto questo nell'ambito di un contesto di regole del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Certo. Perfetto, quindi l'agenzia, nel nostro caso specifico, fino al 31 dicembre 2016 si limitava, diciamo, a effettuare le valutazioni e quindi poi a trasmettere alla Protezione Civile della Regione le valutazioni. Invece, dal 1 gennaio 2017, col cambio della normativa, l'agenzia, oltre a effettuare le valutazioni, anche determina il rischio, diciamo la fascia di rischio, quindi in qualche modo emana l'allerta direttamente. A questo punto la Protezione Civile della Regione adotta l'allerta e lo dirama a, diciamo, tutta la struttura conseguente. E la cosa, cosa fa? Questa scelta cosa fa? Rende il sistema più snello? Ma diciamo che sicuramente ha intanto chiarito una sorta di responsabilità tra previsioni e adozione dell'allerta e quindi del sistema di protezione civile. Ha indubbiamente accelerato, anche se non di molto, diciamo, le procedure informative, ma la cosa principale è che sono state definite delle regole di ingaggio chiare, e laddove le regole di ingaggio sono chiare, è chiaro che è molto meglio, ecco, molto più semplice. Sì. E questo vi consente appunto di poter far operare la protezione civile in un contesto più semplice, anche in termini In tempo reale, mi scusi la in tempo reale, che è lo snodo centrale. Questo vuol dire che al di là dell'allerta meteo che viene data, come dire, qualche ora prima, no? E si dice si avvicina un fronte temporalesco, certo, l'allerta certo, è arancione, quindi rischi per persone, cose, esondazione di fiumi e via dicendo. Nel momento nel quale si sta per scatenare a livello micro, per così dire, il temporale, siete in grado di far reagire gli uomini della protezione civile più rapidamente? Guardi, tra l'altro sostanzialmente anche da un punto di vista fisico, grazie insomma a tutta la struttura della Regione Liguria, della protezione civile, e nel caso di allerta noi viviamo nella stessa stanza sostanzialmente, siamo in strettissima collaborazione con la protezione civile. Stesso palazzo e stessa stanza durante le fasi più diciamo significative. Seguiamo tra l'altro, una volta attivata l'allerta, i nostri previsori sono sul posto, seguiamo e monitoriamo costantemente, diciamo quasi minuto per minuto, l'evoluzione del fenomeno, con a fianco i colleghi della protezione civile. Qua un ascoltatore ci scrive da Genova, dice sì, e il tutto si risolve col fatto che quando a Genova è sereno abbiamo l'allerta rossa, cioè dice a questo punto, dicevo, dopo tutto quello che è successo negli anni, anche la condanna, e ne abbiamo parlato molto spesso, dell'ex sindaco Marta Vincenzi Morale, sia gli amministratori locali che come dire, i vertici regionali e via dicendo, cosa fanno? Nel momento nel quale c'è un minimo di allerta fanno scattare l'allerta più alta per timore che succeda qualcosa. Questo una sovrastima del rischio è possibile, Maggiolo? Ma dunque, guardi, sicuramente, come lei ha anticipato all'inizio, la Liguria e Genova in particolare è sensibilizzata su questo aspetto. C'è da sottolineare il fatto che rispetto ad altri territori nazionali la Liguria ha una morfologia talmente complessa e complicata che è molto difficile fare previsioni, diciamo, attendibile al 100%, ed è altrettanto difficile fare valutazioni di carattere idrologico nel caso poi queste precipitazioni si concretizzino. Tenga presente che i tempi di risposta di una piena sul Po, come tutti sanno, sono dell'ordine di qualche giorno, i tempi di risposta di un bacino medio-piccolo in Liguria sono di qualche ora. Quindi è molto più complicato. Questo non significa che noi siamo necessariamente diciamo super cautelativi, ma siamo realisti. D'altronde ancora la perturbazione che ci ha solamente sfiorato era prevista in base alle nostre valutazioni che scaricasse su Genova quello che è successo a Livorno. Certo. Per cui in qualche modo diciamo che capisco anche la posizione. Certo, gli ascoltatori, però è vero anche che è meglio un minimo di precauzione in più che delle precauzioni in meno. Io la ringrazio, grazie a Stefano Maggiolo. Questo sarà un grande dubbio, un grande tema sul quale dibattere, perché poi, come sapete, interviene la giustizia, e quindi se poi sottovaluti rischi addirittura di finirci in galera o con i beni pignorati. È successo tante volte, oltre ovviamente al pessimo dividendo politico che ne hai. E quindi ormai anche gli amministratori locali su queste cose sono molto attenti, e attenti ad essere a volte super cautelativi, però evidentemente è quello che ci vuole. Grazie a Stefano Maggiolo, direttore dell'ARPAL Liguria, per essere stato con noi. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo subito dopo. Andremo da Marco Cardilli, che è il delegato del sindaco Virginia Raggi alla sicurezza, per parlare dello stupro che è avvenuto ieri fuori dalla stazione Termini, e poi di questa, resteremo nella capitale per questa vicenda della chikungunya, spero di aver pronunciato bene, si tratta di questa malattia che potrebbe portare oggi addirittura alla sospensione della donazione di sangue nell'intera area della capitale. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: in Sicilia caos sulla candidatura 5 Stelle di Cancelleri, sospesa dal giudice. Disoccupazione al 10,9% nel secondo trimestre, ai minimi dal 2012. A Livorno si indaga sugli scolmatoi costruiti nel 2013 ma non abbastanza grandi. Scuole e vaccini, primi problemi a Udine, esclusa dall'asilo una bimba, poi ammessa alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Marco Cardilli, delegato del sindaco Virginia Raggi alla sicurezza a Roma, bentornato ai nostri microfoni, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori. Non per un evento felice però, le diamo il bentornato, ma per la vicenda della ragazza finlandese che è stata stuprata nei pressi della stazione Termini da un cittadino di origini bengalesi che risiedeva qua con permesso umanitario che era stato accettato. Cardilli, ovviamente non ha a che fare con voi né il tema della concessione dei permessi per fini umanitari né la revoca dei medesimi, ma di certo ha a che fare con voi quella che è la sicurezza nell'area della stazione. Che ci dice su questo fronte? Sicuramente questo in particolar modo è un reato molto odioso, particolarmente sentito ed avvertito. L'area della stazione, noi anche assieme alle forze di polizia, unitamente alla polizia locale, effettuiamo dei controlli giornalieri in tutta l'area. Ovviamente questo non ci mette in salvo, diciamo, da iniziative di singoli, che devo dire la verità, ringrazio anche le forze di polizia che sono riuscite a risolvere il caso in tempi molto brevi. Sì, identificato in tempi brevi. Quindi il livello dei controlli, ci dice, generalmente nell'area della stazione, o poi chi frequenta la stazione lo vede, insomma, è abbastanza alto, dice? È sempre abbastanza elevato, per tanti motivi, anche perché ci sono in corso dei controlli anche di natura amministrativa, che poi all'occorrenza possono anche tramutarsi in controlli di polizia giudiziaria. Questo, ripeto, ovviamente è spalmato nell'arco delle 24 ore, ma c'è una presenza costante di forze di polizia durante tutto quanto il giorno. Grazie Marco Cardilli, delegato del sindaco alla sicurezza per Roma. E a Roma restiamo, perché dopo i tre casi di Anzio si sono verificati altri quattro casi di chikungunya, spero di averlo pronunciato giusto, lo ripeto un'altra volta, sono stati accertati nel sud della capitale. È un tipo di febbre trasmessa da alcune zanzare. Siamo in linea con Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma proprio, presidente della Società Italiana Malattie Infettive Tropicali. Andreoni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Che cos'è questa chikungunya? Chikungunya. Chikungunya, ok, l'accento va prima. Ok, sì, perfetto. Va messo un po' prima. Ma dunque, è una malattia dovuta a un virus che viene trasmessa all'uomo dalla puntura di una zanzara. In particolare la Aedes albopictus, più facilmente conosciuta come zanzara tigre, quindi questa zanzara che è arrivata in Italia alla fine degli anni 90 e che ormai abbiamo imparato a conoscere, perché è una zanzara, quella fastidiosa, quella che ci punge anche di giorno, non solo alle ore crepuscolari come fanno le altre zanzare, quindi è una zanzara molto fastidiosa. Beh, questa zanzara è arrivata e inevitabilmente, quando arrivano i casi di chikungunya, ci trasmette questa malattia. E che tipo di malattia è? È potenzialmente mortale o no? Allora, no, la mortalità sono fatti del tutto eccezionali per fatti emorragici che si possono accompagnare a questa malattia, però è una malattia sotto l'aspetto di mortalità, è una malattia tranquilla, però invece è una malattia molto molto fastidiosa, cioè una di quelle malattie che danno febbre, danno grossi dolori articolari, possono dare un esantema e via dicendo. Quindi è una malattia che quando la prendiamo non è la solita sindrome influenzale, è qualche cosa che ci impegna molto di più e soprattutto può lasciare dolori articolari anche per tempi abbastanza lunghi, diciamo, ecco. Però è una di quelle malattie che si trasmette con una certa facilità, proprio per quello che dicevo prima, perché di queste zanzare, al contrario della malaria, di cui non parliamo, però voglio dire, è una di quelle malattie in cui la zanzara ce l'abbiamo, sta qui, e quindi quando c'è un solo caso, normalmente e abitualmente ne vediamo degli altri, che spesso sono molto meno di quelli che sono realmente presenti, perché questa malattia alcune volte decorre in maniera o addirittura asintomatica, oppure in maniera poco sintomatica, e questi casi che non vengono diagnosticati in realtà servono ad aumentare la circolazione di questo virus. Quindi abitualmente non vediamo 3, 4, 5 casi. Ma si trasmette da uomo a uomo? No, assolutamente, assolutamente no. In 10 secondi, l'unica soluzione, sì, professore, è ammazzare le larve, ammazzare le zanzare. Assolutamente sì, cercare di combattere le zanzare, combattendo le zanzare evitiamo la circolazione. La ringrazio, grazie Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma, presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali. Traffico Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.